Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Pinzimonio. Questa è la numero 31 e qui raggiungiamo il traguardo delle 150 parole estratte dal vocabolario Treccani ed usate per condire il nostro linguaggio. Le parole di oggi sono a tema liberazione e sono redimere, assoggettare, prostrare, affrancare ed emancipare. Cominciamo con redimere, che in senso proprio significa riscattare o liberare, come redimere un popolo oppresso dalla schiavitù. Nell'uso religioso e in particolare cristiano, redimere significa liberare dal peccato o dalla condizione terrena di sofferenza e imperfezione, come Cristo si è sacrificato per redimere tutta l'umanità. Infine, in senso finanziario, redimere significa rimborsare, estinguere o ammortizzare un debito. Continuiamo con assoggettare, che significa innanzitutto rendere soggetto, sottomettere, assoggettare il nemico. Altrimenti sottoporre, costringere a sopportare, assoggettare alle proprie voglie. O infine, nel senso riflessivo, come assoggettarsi, significa sottomettersi, piegarsi al dominio altrui o anche sottoporsi, volontariamente o no, a una norma, assoggettarsi alle leggi. Continuiamo con prostrare, che specificamente significa stendere a terra, abbattere o atterrare, o anche in senso più definitivo, annientare completamente, prostrare il nemico. In senso figurato significa altrimenti indebolire, fiaccare, privare totalmente dell'energia fisica o psichica. La lunga convalescenza lo ha prostrato. In senso figurato significa anche umiliare o avvilire, come prostrare la vanità di qualcuno, o in senso riflessivo si intende come il gettarsi in ginocchio o disteso per terra per venerare o implorare, si prostrò per chiedere perdono. Poi abbiamo affrancare, che significa innanzitutto rendere franco, cioè libero da un onere o da una servitù, affrancare uno schiavo. E da qui, per estensione, significa liberare o emancipare. In senso riflessivo, affrancarsi appunto significa quindi liberarsi, affrancarsi dai debiti, o in senso figurato, affrancarsi dalle passioni. O nel suo secondo significato, affrancare significa pagare la tassa di spedizione di una lettera o di una cartolina, applicandovi i francobolli o il timbro equivalente. Affrancare la corrispondenza. Concludiamo con emancipare, che nel linguaggio giuridico significa attribuire sotto determinate condizioni l'indipendenza giuridica a chi, per minore età o per condizione sociale, ne sia privo, emancipare un minore o emancipare uno schiavo. Per estensione significa liberare da un vincolo o da una soggezione, emancipare un popolo dalla dominazione straniera. Più comune è il modo riflessivo emanciparsi, come liberarsi o sottrarsi a una soggezione, a una dominazione, a una condizione subalterna. Per esempio, emanciparsi dalla dipendenza economica o emanciparsi dalla famiglia. Qui concludiamo questo 31esimo Pinzimonio. Io vi auguro un buon proseguimento con Radio Zanardi e vi aspetto domani sempre alle 9:15. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Treccani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.